Cari amiche e cari amici, come sapete Bruxellando è in tournée questa sera e siamo al Film Festival di Bruxelles e ho il piacere di intervistare Claudio Giovannesi. Claudio, benvenuto a Bruxelles. Grazie. E innanzitutto complimenti anche per il tuo film che ho trovato veramente molto ben fatto e si vede anche il tocco di Daniele Cipria alla fotografia. Assolutamente. Daniele l'abbiamo incontrato qualche mese fa, quindi ne approfitto per salutarlo. Quanto è stato difficile, partiamo con le domande, girare questo film con gli occhi di un sedicenne? Ma non è questa non è stata la parte difficile, anzi è stato proprio il motivo per cui abbiamo fatto questo film, perché è un film che è raccontato col punto di vista di un protagonista che ha 16 anni, è proprio quello che secondo me era interessante raccontare, cioè un mondo visto con gli occhi di un adolescente, quindi senza i giudizi, è giusto, è sbagliato, è una cosa che si può fare, è una cosa che non si può fare, c'è uno sguardo diverso, lo sguardo di un adolescente. Comunque complimenti, perché trovo che questo sguardo sia veramente passato molto bene attraverso la telecamera. Quest'anno a Bruxelles e un po' in tutta Europa festeggiamo l'anno del cittadino. Io trovo che nel tuo film ci siano tre temi molto importanti: l'integrazione, la diversità ed insieme l'identità. Se guardiamo a Nader, la sua evoluzione dall'inizio fino alla fine, dove lo collocheresti tra queste tre differenti posizioni, quindi tra integrazione, diversità e identità? Sicuramente, cioè, quello è un percorso come un romanzo di formazione che riguarda ogni adolescente. L'adolescenza è un periodo di cambiamento, di definizione dell'identità. In questo caso è resa ancora più difficile dal fatto che l'identità di questo ragazzo vive di due differenti appartenenze, cioè la cultura dei padri, la cultura delle radici, che è quella dell'Egitto, del Maghreb, e poi la cultura del presente, del posto in cui è cresciuto e dove è nato, che è l'Italia. C'è un aspetto che non emerge molto e che probabilmente, a cui tu potrai probabilmente darci una ragione: lo Stato dov'è? Non si vede, si vede veramente molto raramente, se non con una multa del tutto veramente non necessaria. Ma lo Stato non esiste in questi casi, cioè lo Stato non lo sa, lo Stato è lontano e le istituzioni sono qualche cosa di astratto, è un'astrazione. Qui si raccontano delle giornate, si raccontano delle strade, dei percorsi di esseri umani, di ragazzi nelle strade. Lo Stato è un'invenzione in questo senso, dovrebbe esistere, dovrebbe intervenire, sarebbe interessante avere uno Stato che capisse che cosa significa gestire la nascita di una società multiculturale, ma non è il nostro caso purtroppo. E lì rappresenta proprio questi due aspetti, perché come dicevi tu prima, da un lato parla il romano con i genitori, quindi c'è proprio questa evoluzione, effettivamente film di formazione è veramente un'ottima definizione. Però come mai, come spieghi questa gelosia allora per la sorella che lui manifesta proprio alla fine del film, tanto da sparare addirittura all'amico? Ma che dire, grazie a Dio poi non lo prendo. Male, infatti io perché no, non muoiono gli adolescenti, non muoiono. E no, che dire, che quello è il paradosso su cui si basa il film. Lui desidera qualche cosa per sé e la via dalla sorella. Quello è un paradosso. Quando c'è un paradosso, quando c'è una questione illogica, c'è un racconto. E questo paradosso poi è vero, perché lui effettivamente, non per dire che è una cosa, cioè non per legittimare la scelta, però è qualche cosa di cui ne ho parlato anche con lui, ho avuto la fortuna di parlare col mio protagonista, col mio personaggio. Niente, dice così, così. Quindi la Sicilia, ma sì, vero, è un sentimento vero, vivo. E la Sicilia 30 anni fa era identica, sì. Il Maghreb è un po' più a sud, passeranno gli anni e andrà tutto bene. Come mai la scelta di giocare con un cast di giovanissimi, senza attori conosciuti, senza volti nuovi? Perché un sedicenne attore non esiste, cioè se esiste è una creatura mostruosa, cioè a 16 anni non puoi fare l'attore. E poi perché lavorare con attori non professionisti, che detta normalmente sono esseri umani con cui tu, che tu metti di fronte una macchina alla presa, è un'esperienza umana stupenda, stupenda, in cui impari forse tu molto di più di loro, cioè è un percorso. È stato difficile formarli oppure vi siete divertiti poi alla fine? Ma ci siamo divertiti, è stato faticosissimo, a tratti anche doloroso per me, per loro, insomma fare un film sembra assurdo perché poi stai qui, lo presenti, giri il mondo, però è un'esperienza molto forte, a volte anche dolorosissima, perché si tratta di mettere in gioco delle parti, certo, molto, molto intime, e insomma... poi soprattutto nel caso di un film del genere in cui loro sono costretti a mettere in scena loro stessi, anzi desiderano mettere in scena quello che sono, è un continuo lavoro di ridefinizione della propria identità, di quello che sei, di quello che desideri, di quello che riesci a dire, di quello che non vuoi dire. È così. Qual è stata la reazione del pubblico in Italia? So che il film è stato accolto molto bene. Ma in realtà sì, noi abbiamo la critica, abbiamo avuto la fortuna, il privilegio, insomma siamo stati capiti in qualche modo, anche sostenuti da a volte però il pubblico, perché poi insomma uno li incontra il pubblico, anche qualcuno mi dice ma veramente esistono ragazzi così? Ha detto sì, esistono, stanno a un quarto d'ora di macchina da dove stiamo parlando adesso, quindi era come se c'è stata in qualche modo da parte di qualcuno come se fosse un film più duro di quello che io credevo fosse. Evidentemente è così, perché poi il film lo capisci quando lo vede il pubblico, ma forse perché alcune cose cioè proprio non vogliamo capirle probabilmente. Ma a me interessa l'innocenza di questi ragazzi, cioè anche se fanno qualche cosa di criminale, al di là del giusto dello sbagliato, interessante l'innocenza del loro sguardo, che è la cosa che a me personalmente emoziona, proprio emoziona, per questo l'ho fatto. Poi certo, ovviamente è un sentimento che può essere visto in maniera diversa da chiunque. So che hai presentato il film in vari festival, so che sei stato anche a New York tra le altre cose e questa sera sei a Bruxelles. Rispetto alle domande che il pubblico ti ha fatto in Italia, che cosa hai potuto riscontrare invece incontrando non solo gli italiani all'estero ma anche invece il pubblico locale? Ma guarda, una cosa che mi fa pensare che il cinema forse è veramente un linguaggio universale, che le domande che ho ricevuto, che ricevo a New York, a Bruxelles, a Hong Kong sono veramente le stesse. Sono le stesse, perché questa è una cosa che mi ha stupito molto. Non so dare una spiegazione a questa riflessione, però è così. Cioè, evidentemente i personaggi esistono e hanno un valore al di là del posto in cui vengono visti. Ognuno ha a che fare con una società, con la multicultura, ognuno ha a che fare con l'adolescenza, se lo fai in Oriente, se lo fai in Occidente, c'è sempre qualche cosa in cui ci si riconosce. Però è un film, concedimi di dirtelo, soprattutto sull'amicizia. Bravissima, sono contento che hai detto questa cosa, perché è vero, un film sull'amicizia. È l'amicizia tra i due protagonisti, tra Nader e l'altro ragazzo, che comunque resta il nocciolo duro. Ma sì, perché poi alla fine puoi parlare di multicultura, di immigrazione, certo, c'è tutto, ma di fondo un film lavora sui sentimenti e su come vengono vissuti i sentimenti dei personaggi. In questo caso i sentimenti sono due, sono i soliti, amicizia e amore. Bra. Però l'amicizia, in questo caso, mi sembra di trionfare. Meno male. A che cosa stai lavorando in questo momento? Possiamo già svelarlo oppure ci lasci con un po' di sorpresa? No, ma adesso in questo momento sto finendo un documentario molto difficile sul figlio di un rabbino che è stato accusato di collaborazionismo, quindi è una storia molto dura. Poi a settembre inizio a scrivere un film su una ragazza di 16 anni che ha 2 mesi di detenzione in carcere, cioè un film in carcere dal punto di vista femminile, sempre di un adolescente, però sto ancora all'inizio. Beh, benissimo Claudio, noi ti ringraziamo, ti auguriamo ancora un buon soggiorno a Bruxelles e speriamo di rivederci presto. Grazie, saluto a Bruxellando. Ah, grazie Claudio. Grazie.